passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci, 18:38 con 2 minuti e mezzo di ritardo, ma non è colpa nostra. I numeri di telefono per chiamarci 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara @radio24.it. I titoli di Sky, perché sul secondo c'è la partita, dunque non ci sono i titoli del TG2. Lombardia, PDL nei guai, respinto il ricorso, esclusa la lista Formigoni. Partito KO anche nel Lazio, la Polverini, ora ho fiducia nel TAR, dice. Grecia in crisi, il governo taglia bonus e tredicesime, tensioni in piazza. Studio aperto. Omar è libero. A 9 anni dal massacro di Novi Ligure, l'ex fidanzatino di Erika De Nardo è stato scarcerato. Capitolo chiuso, ha detto. Ora voglio solo tranquillità. Doppia, clamorosa esclusione delle liste PDL alle prossime elezioni regionali. Poco fa le decisioni dei magistrati a Milano e a Roma. Bonaiuti, stanno negando il diritto di voto a un quarto della popolazione italiana. Siamo arrivati qui, mi sono messo a chiacchierare con un po' di persone. 11:30, come tutti questi qua, 11:30. Siete usciti e siete rientrati quando vi abbiamo visto a 12:45. Eh sì, perché c'era, io l'ho chiamato, ho approfittato per mangiare qualcosa e visto che c'era, lui stava ancora a piedi, sono rimasto fuori e ho mangiato, sono tornato tutta tranquillità. Da Milioni alla Lombardia, dove c'è stato un grande pasticcio sui timbri, sulle firme autenticate, valide, non valide, insomma, Formigoni resta escluso addirittura. Formigoni dalla candidatura in Lombardia, ci sarà ricorso al TAR, mentre nel Lazio non è stato ammesso il PDL e su internet impazza la canzone che state ascoltando. C'è un La Russa furioso sin da ieri sera, perché forse prevedeva quello che sarebbe accaduto. Ieri sera, linea notte, TG3. Non ci rassegneremmo, non pensi che possa esserci un verdetto che accettiamo. Le faccio un'ultima domanda. Non accetteremo domanda. Nessun verdetto di esclusione. In un'intervista questa mattina a Riformista, lo stesso La Russa dice: siamo pronti a tutto scandito. Litigio con Bianca Berlinguer, sentite, sempre ieri sera La Russa protagonista, molto molto nervoso. Come mai non è successo in nessun'altra città d'Italia? Come mai non è successo? Come mai? Come questo PDL che è bravissimo a Macerata, che è bravissimo a Torino, che è bravissimo a Venezia, che è bravissimo a Genova, beh, a Roma, che è bravissimo, improvvisamente nelle due città principali. Quindi lei dice niente, l'hanno voluto colpire. Nelle due città a principali, a Roma e a Milano, l'hanno non voluto è bravo. Colpire. Come è possibile? Allora cosa vuol dire? Se lo chiede lei. Io me lo se lo chieda. Io non me lo chiedo. Se lo chieda. Ci sono delle regole che devono essere rispettate. Che sono state rispettate. Stabilirà il magistrato. E c'è un'attività tesa a cercare il pelo dell'uovo. Sa perché? Perché? Perché la sinistra ha perso con noi sempre da un po' di anni. L'unico modo per sperare di vincere è di correre da sola. Ecco, ma allora non perché? Riuscirebbe a vincere neanche se corresse da sola. Allora, perderebbe contro lo Tito, ministro, come dice la battuta. Allora, per, gli piace vincere facile, nostri, gli piace vincere facile. Vabbè. Come facciamo inutile a vincere? Eliminiamo gli altri. Inutile che si scalda. Vabbè, non quindi mi lei scaldo. Scarica tutta la responsabilità. Io diciamo, dico che all'esterno sono, dicevo, vedrà, chi vivrà vedrà. Quella sullo Tito è eccezionale. Risentiamola. L'unico modo per sperare di vincere è di correre da sola. Ecco, ma allora non perché riuscirebbe a vincere neanche se corresse da sola. Allora perderebbe contro Lotito, come dice la battuta. Allora, questo era il momento topico di questo scontro al vertice tra La Russa e Berlinguer ieri sera. Lina Notte, ce n'è stato un altro, un po' meno scontro. Sentiamo. Se a Milano contestano che c'è il bollo quadrato invece del bollo tondo, però, o se a Roma si sdraiano i radicali e impediscono di entrare, adesso è un magistrato che c'è nostro. Vogliamo dire davvero che la lista non è stata presentata perché sono sdraiati i radicali? Cioè, guardi, è una spiegazione un po' semplicistica. Bianca Berlinguer, no, le devo dire, perché questo non la posso lasciar passare. Ma non lo dico poi io, lo, dice. Lo dicono i carabinieri. C'è un rapporto dei carabinieri. Allora, li abbiamo denunciati alla magistratura. Come mai non è stata denunciata subito questa violenza? Immediatamente. È stata denunciata al giorno dopo. Ma perché pensavamo che dentro coloro che avessero coloro che hanno il dovere di far rispettare le regole accettassero la lista? Nessuno ha pensato che non venisse rimessa in condizione di essere presentata. A Roma hanno portato tutti i documenti davanti alla porta, poi sono allontanati 5 metri, è uscito un magistrato e ha detto che oltre a quella linea non va più bene. Ma scusa, dillo prima. Stanno per rientrare, 10 persone le hanno sbarrato la strada. Botte, spindoni, ripresi dalla TV. Questa è la sua versione. Non è la mia versione, è la versione dei carabinieri. È la vostra versione che poi dovremmo... No, la versione lo decideranno poi i magistrati quale sarà, perché non lo possiamo decidere noi. Questa è la nostra versione. Augusto Minzolini by Max Paiella durante la trasmissione della Dandini. Sentitelo il direttore del TG1 sulla questione della presentazione delle liste. Perché presentare delle liste entro mezzogiorno? Ma che vuol dire? Come io decido quando devi presentare le liste, io presento quando mi pare. Perché? Ma, perché? Ma come perché? Scusi, se sono regole, no? Mi dispiace, c'è una regola che lo prescrive, se no si è fuori legge, scusi, eh. Comunque, ma se è mezzogiorno a Roma, può essere mezzanotte a Sydney, le 3 a Cape Canaveral, le 4 e mezza a Orte, le 5 e mezza a Castel Madama, tutto relativo, tranne il televoto. We are the world. Va bene, 18.47, 800 24 0024, Cesare Siracusa, buonasera. Buonasera. Dica. Buonasera. No, io l'ascolto ogni sera e sentivo di chiamare per questo problema della presentazione delle liste, dello stop ai talk show elettorali. Sono, diciamo, un elettore di centrodestra che soffre una grave crisi di rigetto e in merito alla presentazione delle liste, per tutto quello che si sente, mi sembra che sarebbe una posizione più dignitosa accettare di dichiarare la dabbenaggine di chi ha operato per conto di queste liste. È inutile oggi invocare accettiamo la sostanza sulla forma. Ci sono delle regole, vanno rispettate. Quando le regole cambieranno se ne prenderà atto. Non si sono presentati i termini, basta. Cioè, veramente un circo equestre che hanno messo su, che è veramente, almeno io ritengo, pietoso. Per quanto riguarda invece la chiusura dei talk show, lo stop talk show, direi che, visto che paghiamo il canone, si accetta o meno il tipo di programma, Santoro, chi per esso, se io non voglio sentirlo o vederlo, non lo seguo, o lo posso anche seguire non condividendone i contenuti, dico Santoro come può essere Vespo, chi altri, ma non dare uno stop, dobbiamo rassegnarci all'Isola dei Famosi, se non piuttosto a Sanremo o altro. Cioè, mi sembra un insulto all'intelligenza degli italiani, che credo non si facciano condizionare da cosa si ascolta in un talk show, o quantomeno può essere costruttivo ascoltarlo e poi decidere. Va bene, grazie. Stefano da Roma. Buonasera. Buonasera, dica. Il mio intervento era sulle presentazioni della lista qui nel Lazio della Polverini. Mi pare evidente pensare che possa essere successo che le persone che erano lì attendevano magari qualche comunicazione, perché non si sono messi d'accordo sui candidati fino all'ultimo minuto. E quindi quello che andava a mangiare il panino. Sembra che sia così. Sì, no, è evidente, qui sarebbe il caso di dirlo. Cioè, è tre giorni che lo diciamo, Stefano. Prego? È tre giorni che lo diciamo, che ci sono indiscrezioni sui giornali, eccetera. Per cui non è il caso di dirlo, ma in realtà si dice, per cui non è così. Non è così, che vuol dire? Che perché se ne parla, Stefano, è una cosa di cui si parla tranquillamente, si scrive sui giornali, se ne parla alla radio, lo si dice in televisione, cioè non è una cosa che viene tenuta nascosta. È tutto là, non l'avevo sentito dire. Ma da noi da chi, scusi? Da noi da chi? Le persone che vanno a prendere il panino e cose del genere. Mi sembra molto più logico pensare a quest'altra cosa. Ma guardi, che ne abbiamo parlato sia alla Zanzara che in altre trasmissioni, che sentendo altre persone. C'è questa indiscrezione, naturalmente, che è respinta dai dirigenti del PDL, secondo la quale ci sarebbero stati dei dissidi nella composizione dell'ultimo minuto nella composizione delle liste. È una cosa che abbiamo detto sin dall'inizio, abbia pazienza. Va benissimo, d'accordo, la ringrazio. Ma il problema non è quello, insomma, non è quello, è anche quello, naturalmente, del litigio che ci può essere stato, del contrattempo. Lo si risolve prima, non è che si risolve all'ultimo secondo, no? No, d'accordo, quello è importante, se mi permette, perché non è un fatto casuale, significa che c'è una profonda contraddizione all'interno, no? Sì, ma non è solo, non è che anche enfatizzarlo, secondo sì, me. Sì, si può anche enfatizzare, enfatizziamo quello che vogliamo, ma in questo caso non è che la divisione passa attraverso quelli di AN, quelli di Forza Italia. Ci sono delle camarille interne romane, chi deve essere capolista, no, che non riguardano solamente la questione Forza Italia Alleanza Nazionale. Chi deve essere capolista di là, l'amico di quello, l'amico di quell'altro, la moglie di questo e il marito di quell'altro. La ringrazio, Gianluca da Roma, buonasera. Buonasera Cruciani. Allora, io volevo fare una premessa. Io non sono, diciamo, come dire, estraneo a questo ambiente. Chi le parla è stato anni fa, esattamente regionale, 10 anni fa, uno di quelli che aveva proprio in mano dentro la Corte d'Appello, la stessa in cui è successo questo fatto della presentazione di lista, i plichi per una lista. Adesso non voglio dire quale lista. Sì. Le dico anche che sono, diciamo, mi posso ritenere un tecnico dei sistemi elettorali, in quanto sono laureato in scienze politiche proprio su questa materia e conosco i tecnicismi. Io so che lei non è amante dei tecnicismi, però il punto focale su cui io vorrei far aprire una riflessione è anche il perché queste cose succedono sempre per le elezioni regionali. Nessun giornalista se l'è chiesto. E perché? È successo mai per le elezioni politiche? No, anche per le politiche, delle liste ammesse, non ammesse, c'è sempre un tormentone alla fine. Sì, ma in maniera forte, se è sempre per le elezioni regionali, perché hanno un sistema di presentazioni, un numero di presentazioni molto particolare che si intona proprio a queste cose, perché devono essere presentati un numero di firme molto alto per provincia, sì, per collegio. Adesso non entro nel dettaglio, però questo sistema abbastanza macchinoso si intona a questo tipo di giochetti. Cioè quali giochetti, scusi? Vengo anche al punto. Allora, cioè lei dice un sistema che è predisposto per i ricorsi? È un sistema macchinoso che i partiti conoscono perfettamente, come conosco io e come conoscevamo, sì, noi come partito al tempo, e che, come dire, può dare... Io posso spiare il mio avversario e posso vedere in che condizioni sta. Le faccio un esempio specifico. Noi come lista, adesso ripeto, non posso dire la lista, eravamo gli unici nel 2000... Non è mica un segreto, A stare per le strade... È una lista di destra. Sì. A stare per le strade a raccogliere le firme con un consigliere comunale intero che poteva notificarle. Eravamo gli unici. E dunque, se lei non vede gli altri, uno si domanda, le firme come le hanno raccolte? E siamo stati buttati fuori. Vabbè, adesso non entriamo nel dettaglio. Gianluca, la cosa, secondo lei, cosa è accaduto? Prima di tutto, come è palese, come ha detto prima lei, è accaduto. C'è stato, lei ha parlato di camarille, ed è esattamente quello. Ma è successo anche altro, secondo me. Lì, a un certo punto, qualcuno ha voluto veramente che il PDL rimanesse fuori per creare... Qualcuno chi? All'interno del PDL. Ah, dice all'interno. Perché è stato un effetto sponda, secondo me. È un mio ragionamento, adesso da profano, però, da cittadino comune. È stato un effetto sponda, nel senso... Siccome non ci mettiamo d'accordo, una parte di quelle camarille, ho capito, dice, ho capito, rimaniamo fuori, così tanto meglio, tanto peggio. Ho capito. È una ricostruzione possibile di quello che può essere accaduto. La ringrazio. Mario da Pescara. Buonasera. Allora, Mario, volevo... spenga la radio, la abbassi, perché altrimenti la sentiamo doppio. Allora, dica. Brevemente volevo dire lo sconcerto come lettore del centrodestra rispetto a quello che è successo in queste regioni. E vabbè, credo che chiuso questa con volta lo sconcerto sia esclusivamente all'interno del PDL. Assolutamente non c'è da dare la colpa a nessun altro, sono camarille, come diceva lei poco fa. Un'altra cosa brevissima sul discorso che sta facendo il centrosinistra sul rispetto delle regole, mi chiedo se hanno la stessa coerenza nel dire che c'è la regola della par condicio e di accettarla. Ecco, questo... Che vuol dire? Mi scusi, non ho capito. Il fatto che, se voglio dire, c'è questa invocazione da parte del centrosinistra al rispetto delle regole. Sì, che le regole bisogna rispettarle, i termini di presentazione, eccetera, allora... Esattamente, quindi invece quella della par condicio non capisco perché c'è tutta questa aderenza ai giornalisti che scendono in piazza, che non sono d'accordo. No, ma quella è una cosa diversa, non è che la par condicio significava per la Rai o avesse, per la Rai ci fosse l'obbligo di sospendere i talk show, non è che la par condicio dice sospendere tutti i programmi, i talk show, eccetera. Vabbè, sì. No, assolutamente no, Mario. Cioè, no, no, glielo no, dico no, io. È vero, è vero. No, no, ha ragione. Per cui quella è una decisione della Rai, poi si può discutere giusta, sbagliata, perché da cosa nasce, da cosa non nasce. È vero, è vero. Diciamo che il mio voleva essere un intervento, quello precedente. Ho capito. Giuseppe, provincia di Lecco, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Io penso che quello che sta succedendo e quello che anche i vari deputati del PDL, nonché dirigenti, vanno dicendo nelle varie trasmissioni, sia un insulto all'intelligenza del popolo del centrodestra, sia un insulto all'intelligenza di chi vota centrodestra, perché richiamandoci alla storia delle regole, se regole ci sono devono essere uguali per tutti. Io mi riferisco alla questione di Formigoni e io da lombardo non provo neanche ad immaginare una Lombardia senza Formigoni, però mi chiedo su tante firme comunicate in modo corretto, è mai possibile che una parte non è stata raccolta in modo rispettoso di queste benedette regole? O verificata, perché il problema lì pare che sia nella verifica di queste firme. Comunque sì, è incredibile che una lista importante come quella che è legata al presidente Formigoni di Lombardia non sia riuscita a raccogliere in tempo utile queste firme, o comunque a poi a timbrarle in maniera corretta. Eccoci qui, 19:18, di nuovo in onda con la Zanzara, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. C'è la frase del giorno, una delle frasi del giorno, che è certamente questa, è stata pronunciata durante il congresso della UIL da Giulio Tremonti. Sentite, da metà Italia in giù è in default, cioè metà dell'Italia è in default. La sanità in troppe regioni costa il doppio e rende la metà. Quando incontri un assessore non sai bene se è un assessore o un camorrista. TG3. Formigoni fuori dalla corsa per la Lombardia, respinto il ricorso, si appella al TAR, nuovo stop alla lista PDL, Polverini. Il Senato dice sì alle dimissioni di Di Girolamo, applausi da parte di esponenti del PDL dopo il suo intervento in aula, PD è una vergogna. Nell'inchiesta G8 spuntano anche festini gay organizzati per Balducci, il Vaticano espelle un corista coinvolto. Confronto Bersani-Tremonti sulla riforma del fisco, il vero giudice è il popolo, dice il ministro, ma non è il giudizio di Dio, replica il leader PD. Omar torna libero 9 anni dopo il massacro di Novi Ligure, con la fidanzatina Erika uccise la madre del fratellino di lei. A 4 giorni dal voto torna il terrore in Iraq, 3 attentati contemporanei a Bakuba, oltre 40 morti. Alcol sempre più diffuso tra i giovanissimi, il primo bicchiere già a 12 anni, l'età d'inizio tra i ragazzi italiani è la più bassa d'Europa. Sky TG24. Esclusa la lista Formigoni, i giudici bocciano il governatore e la parola passa al TAR. Fuori a Roma anche il PDL, la Polverini, ho fiducia nel ricorso. Il video della contesa di Roma, le firme, il litigio, le minacce fra Milioni e radicali. Di Girolamo lascia e si difende, non c'entro con l'andrangheta, il PDL applaude, è polemica. I ragazzi del coro, il Vaticano allontana il cantore nigeriano che combinava incontri per Balducci. Omar torna a casa, scarcerato dopo 9 anni l'autore della strage di Novi Ligure. Milano, Teheran, traffico d'armi, arrestati 3 agenti segreti iraniani. Stretta sui conti in Grecia, taglia i salari e più tasse per riprendersi dalla crisi. Iraq, sangue sulla campagna elettorale, 3 attentati a Bakuba, oltre 30 morti. Nazionale, questa sera l'amichevole dei debutti contro il Camerun, prima per Cossu e Bonucci. C'è una lite tra, oltre che sulla questione delle liste, dove il PD dice ci vuole rispetto delle regole, il PDL dice ci hanno truffato, i giudici sono contro di noi, non ci vogliono ammettere, sarebbe assurdo non ci fosse il PDL in Lazio e in Lombardia. C'è una lite anche sugli applausi a Di Girolamo, che si è dimesso dal Senato. Ci sono stati gli applausi dopo il suo discorso da parte del gruppo del PDL o di diversi senatori del PDL. Il PD dice vergogna, vergogna per questi applausi. Di Girolamo. Vorrei in ogni caso ringraziare sia tutti coloro del gruppo con il quale mi sono onorato di condividere questi 2 anni della mia vita. Non farò dei nomi, Presidente e colleghi, mi scuserete, perché qualsiasi nome facessi oggi, visto che io sono l'untore, sono il lucifero della situazione, se io mi riferissi a un collega chiamandolo per nome si direbbe che lo stesso è colluso con me ed è mafioso. Ancora Di Girolamo. Non ho assolutamente portato all'interno di quest'aula l'indegnità dell'andrangheta o della mafia, così come mi è stata scritta. Io ho visto una serie di fotografie sui giornali. Vorrei che chi è qui con me in questo momento riflettesse che in campagna elettorale, in quell'evento specifico, io ho fatto quella sera circa 250 fotografie davanti a quella torta. C'era quel signore che dicono essere un mafioso, che a me era stato presentato come un ristoratore, un proprietario di una catena di ristoranti anche all'estero e quindi persona con relazioni per poter votare all'estero. Per queste foto, e nel giro di 3 giorni è stata completamente annientata la mia vita professionale, politica e quant'altro. Siamo arrivati qui, mi sono messo a chiacchierare con un po' di persone. 11:30, come tutti questi qua, 11:30. Siete usciti e siete rientrati? Quando vi abbiamo visto a mezzogiorno e 45? Eh sì, perché c'era, io l'ho chiamato, ho approfittato per mangiare qualcosa e visto che c'era, lui stava ancora qui, sono rimasto fuori. E ho mangiato, sono tornato tutta tranquillità. Squilla il numero di Milioni, eh? Pronto? Alfredo Milioni? Pronto? Alfredo Milioni? Buonasera, Radio 24, mi sente? Come? Non è Alfredo Milioni? Non è Alfredo Milioni. Musica, musica. La russa furibondo. Come mai non è successo in nessun'altra città d'Italia? Come mai non è successo? Come mai? Come questo PDL che è bravissimo a Macerata, che è bravissimo a Torino, che è bravissimo a Venezia, che è bravissimo a Genova. Beh, a Roma, che è bravissimo. Improvvisamente nelle due città principali. Quindi lei dice niente, l'hanno voluto colpire. Nelle due città principali, a Roma e a Milano, l'hanno non voluto è bravo. Colpire. Come è possibile? Allora cosa vuol se dire? Lo chiede lei? Io me lo se chiedo. Lo chieda. Io non me lo chiedo. Se lo chieda. Ci sono delle regole che devono essere rispettate. Che sono state rispettate. Stabilirà il magistrato. E c'è un'attività tesa a cercare il pelo dell'uovo. Sa perché? Perché? Perché la sinistra ha perso con noi sempre da un po' di anni. L'unico modo per sperare di vincere è di correre da sola. Ecco, ma allora non perché? Riuscirebbe a vincere neanche se corresse da sola. Allora... Perderebbe contro lo Tito, ministro... come dice la battuta. Allora, per... gli piace vincere facile. Però. Gli piace vincere facile. Vabbè. Come facciamo inutile a vincere? Eliminiamo gli altri. Inutile che si scalda. Vabbè, non quindi mi lei scaldo. Scarica tutta la responsabilità. Io diciamo, dico che all'esterno sono dice vedrà. Chi vivrà andiamo. Vedrà. We are the world. E poi la Russa, il quale dice siamo pronti a tutto. Non ci rassegneremmo. Non pensi che possa esserci un verdetto che accettiamo? Allora, le faccio un'ultima domanda. Non accetteremmo domanda. Nessun verdetto di se, esplosione. Se... Bene, 19:26 800 24 0024, abbiamo recuperato il Tremonti contro la situazione del Sud. Da metà Italia in giù tutto il sistema è in default o quasi. Quando tu incontri un assessore, spesso non hai chiaro se è un assessore o un camorrista. E a volte pensi che ci sia il cumulo delle cariche, che non è vietato. Questa è la realtà del paese. Va bene, Vincenzo da Milano, buonasera. Sì, buonasera, grazie. Prego. Senta, guardi, questa sera devo dirle che io ho un umore un po' così, un po' triste, come dire, perché ascolto spesso la sua trasmissione, mi piace molto anche lo stile che poi lei dà, no? Anche a volte mi lasci usare questo termine anche un pochino goliardico, no? Per tenere anche viva l'attenzione. Io sono un po' un elettore lombardo, ho sempre votato per Formigoni, sono molto contento di come lui ha governato e vivo questa situazione veramente come una tragedia, no? Perché io non ritengo che la politica sia indifferente se la fa uno piuttosto che un altro. E allora? Quindi sentire anche quindi elettori di centrodestra che dicono vabbè, si è sbagliato a fare le liste, mi lascia veramente, mi intristisce tantissimo, perché io penso che invece in ballo ci sia molto di più, che sia una questione, come dire, di vita o di morte, che non è... Vabbè, non esageriamo adesso, Vincenzo, non è che la Lombardia può essere amministrata solo da Formigoni, per carità, cioè, non diciamo cose di questo tipo, non è che crolla la Lombardia se Formigoni non è più governatore. Io capisco che un elettore di Formigoni si sente in pericolo, ma la mia previsione è che Formigoni sarà candidato in Lombardia, però insomma non è la tragedia, o no? Io affrontare la politica però, come dire, anche qui come se fosse una roba, ormai noi siamo abituati a mettere tutto stile calcio, no? Se ma che c'entra? Qui il calcio non c'entra niente, qui siamo di fronte al fatto che c'è stato un pasticcio provocato e una furbizia da parte di chi ha fatto i ricorsi, naturalmente, ma sono possibili in democrazia i ricorsi, i controricorsi, gli appelli, c'è qualcuno che decide, la forma è vero che non è sostanza, però qualche volta lo diventa. Per cui insomma, se Formigoni se la deve prendere con qualcuno, se la prendesse con la Lega, con chi doveva timbrare in modo corretto e non l'ha fatto, qui non c'è da protestare contro chissà quale trama oscura, o no? No, sono d'accordo anch'io, è tutta colpa di chi è nostra, no, come dire, no? Cioè, non c'è nessuna... Nostra però... è sua forse, nostra nel senso di chi? Nostra di chi? Non, dico, no, però è colpa di chi le ha presentate male, su questo non c'è dubbio, una stupidaggine proprio insensata, allora... però rimettere le sorti di una regione che dove si è governato benissimo, che è quella, come dire, più virtuosa anche in termini di risultati, alla raccolta di 60 firme sbagliate, mi sembra 250. Guardi, non lo so, anche una firma sbagliata può provocare l'esclusione di una lista, Vincenzo. Però mi ricordo, cito, vorrei se possibile commentare anche quello che ha detto Penati circa un attimo, l'arroganza. Un attimo. Da metà Italia in giù tutto il sistema è in default o quasi. Quando tu incontri un assessore, spesso non hai chiaro se è un assessore o un camorrista. E a volte pensi che ci sia il cumulo delle cariche, che non è vietato. Questa è la realtà. L'assessore o il camorrista, quando incontri qualcuno al sud, un amministratore al sud, uno degli audio del giorno, c'è un Di Pietro particolarmente moderato su questa vicenda delle liste. Cioè non è di quelli che dicono basta, bisogna seguire i ricorsi, e dunque se ci sono delle irregolarità è giusto che le liste vengano escluse. No, dice che ci vuole una soluzione politica, vogliamo vincere sul campo, gli elettori non possono essere vittime della sciatteria. Dunque un Di Pietro moderato. Mi spiace davvero che un partito così grande, per lotte intestine, per accaparramento di posti, per dabbenaggine a volte, si sia lasciato andare a certi errori pacchiani e madornali. Questo Di Pietro, andiamo a Lodi. Mauro, buonasera. Sì, buonasera. Dica, con chi eravamo prima? Forse eravamo con qualcuno prima, Vincenzo da Milano. Mauro, vengo subito da lei. Vincenzo, allora. Sì, no, grazie ancora. No, intanto Formigoni, che è il suo preferito, mi sembra di capire, ha detto siamo sorpresi dalla decisione e poi chiediamo verifica su ogni lista. Chiede le verifiche anche sulle altre liste. Vabbè, questa è l'evolversi della situazione questa sera. Sì, sempre più clamorosa comunque. No, l'ultimo commento era solo sul fatto che ritengo che qualora alla fine, anch'io mi auguro di no, ma qualora alla fine Formigoni non ci sia tra i candidati e Penati dovesse vincere, come dire, penso che sia più arrogante questo aspetto qui, perché uno sa che in una competizione normale forse avrebbe perso, ecco. Quindi penso che rispetto all'arroganza sia più arrogante pretendere di... Se non ricordo male, alle ultime elezioni negli Stati Uniti però ci fu un caso di riverifica di voti, no? Dove le penultime elezioni, insomma. Col Bush, quelle di Bush, sì. Se non ricordo male, poi il candidato democratico accettò prima ancora della fine della verifica. Ecco, io penso che noi forse una prova di maturità anche di democrazia e superare certe stupidaggini, no, circa la presentazione di 3500 firme, quando però capisco che oggi queste sono le regole. Sì, anch'io sono d'accordo con lei, mi sembrano delle cose assurde, e però se ci sono, siccome il PDL, tutti questi partiti ricevono un sacco di soldi di finanziamento pubblico, facessero funzionare i loro funzionari, scusate il gioco di parole, li spendessero per seguire le regole, oppure cambiassero le regole. Non è che le regole vengono dal cielo, le regole le fanno gli stessi politici, i quali poi si impiccano su queste stesse regole. La ringrazio. Fiorella da Bologna. Buonasera. Dica. Senta, io... No, scusi, Mauro da Lodi. Fiorella, torno subito da lei. Resti là. Mauro, dica. Sì, volevo dire... Riallacciandomi a quello che stava dicendo l'ascoltatore prima di me, appunto, che nel caso in cui dovessero essere esclusi dalla competizione elettorale i candidati di centrodestra, cioè Formigoni e la Polverini, in effetti poi chi andrebbe a vincere, magari anche col 90% dei votanti, perché io che sono elettore di centrodestra e della Lombardia, se non ci fosse Formigoni non andrei nemmeno a votare, cioè per me questo è palese, anche come in certo senso come forma di protesta. Chi andrebbe a vincere con il 90% protesta nei confronti di chi? Mi scusi Mauro, protesta nei confronti di chi? No, protesta nel senso della situazione, perché avessero anche colpa ad aver sbagliato nella presentazione delle liste eccetera, cosa che appunto appureranno nei prossimi giorni, però sta di fatto che da quelli che si sono sempre proclamati i cavalieri della democrazia, che guardano sempre alla liberalità dietro l'angolo, fare poi un'elezione, considerarla valida anche per loro stessi nel momento in cui sanno benissimo che non tanto che avrebbero perso o vinto, però che comunque la competizione doveva essere tra soggetti che avevano... Ho capito. Però Mauro, queste sono considerazioni politiche del dopo, e io credo che se lei, mettiamo che Formigoni non sarà candidato, dunque lei dice io per protesta non vado a votare, ma lei dovrebbe protestare contro i dirigenti della sua coalizione, del suo partito, adesso non so per chi voti lei, non mi interessa, però qui la situazione è abbastanza chiara, probabilmente delle irregolarità ci sono nella presentazione di tutte le liste, però è questo che bisogna evitare, o cambiare le regole oppure fare in modo di spendere i quattrini del finanziamento pubblico per farle funzionare, cioè per mandare la gente a trovare le firme quelle vere, per autenticare nel modo in cui bisogna autenticare le firme, eccetera eccetera. O no? Se uno fa le cose cose senza sbagliare di solito non si trova mai problemi, però vedi, io penso anche che le regole quando diventano controproducenti, cioè vale a dire quando la regola per il fatto stesso di essere osservata va contro il principio per cui è stata inserita, a quel punto è il legislatore stesso che spesso inserisce delle deroghe, no? Come quando si va come limite di velocità, esiste il limite di velocità, si viene sanzionati, ma lo stesso codice della strada dice se però c'erano dei motivi per cui effettivamente era necessario superare la velocità perché motivi di gravità, io derogo la regola. Perché? Perché in quel caso la regola, l'osservanza pedissequa della regola diventa controproducente. Allora dico, in questo caso sì, però Mauro lei ha ragione, cioè nel senso che qualche volta bisogna andare oltre il formalismo della regola, però in questo caso il formalismo della regola, che significa il tot di firme, insomma è anche sostanza, i termini perentori per la presentazione delle liste. Altrimenti facciamo che uno può presentare le liste fino al 27 di marzo, facciamo che si possano presentare tutte le liste, ne avremo migliaia probabilmente senza raccogliere le firme, oppure presentando un certo numero di firme e risolviamo tutto. Cioè, o ci sono questi termini con il tot di firme, con i timbri come devono essere messi eccetera, oppure non ci sono, delle due l'una. Cioè, poi una volta che uno sbaglia queste cose, possono avere sbagliato tutti nel passato, ci possono essere errori anche nelle altre liste, però se ci sono dei ricorsi presentati dai radicali con furbizia, sui ricorsi si decide, non sulle altre liste, o sbaglio? Sì, cioè non si sfugge a questo ragionamento. Ripeto il concetto di prima, se ci sono delle regole che sono seguite, questo lo sappiamo tutti in qualsiasi ambito della vita normale, però è anche vero che quando siamo di fronte ad un aspetto importante della vita civile, qual è quello di un'elezione, che è uno dei momenti più importanti, ripeto, far diventare la regola più importante dell'invece della possibilità di un elettore di esprimere il proprio voto verso un candidato, forse... No, ma lei, sì, Mauro, lei potrebbe avere ragione. Una volta sono andato davanti a un giudice di pace, avevo presentato un ricorso per una multa. Il giudice di pace cosa ha fatto? In questo ricorso non avevo firmato le pagine del ricorso, cioè non l'avevo firmato. Il giudice di pace mi ha detto: lei ha ragione con questo ricorso, però io non lo posso ammettere, e l'ha respinto perché io non avevo firmato, l'avevo fatto io il ricorso, c'era scritto Giuseppe Cruciani su tutte le pagine, però non le avevo siglate, una cosa formale, a me sembrava ridicola, una cosa da pazzi, e però me l'ha bocciato, che dovevo fare? No, certo, in queste ore così. Cioè, un altro ragionamento che si fa in queste ore, che ho trovato anche su molti giornali, è che la gente muore di burocrazia, muore pazza di burocrazia. Molti avvocati mi hanno scritto: noi per una firma ci vediamo respinti ricorsi eccetera, e dunque lo stesso ragionamento dicono deve seguire la politica, oppure no secondo lei? In questo caso io dico di no. Perché? Perché c'è un interesse collettivo che sicuramente deve avere la precedenza rispetto ad una regola, nel senso che comunque lì sono state portate un certo numero di firme, per cui non c'è il pericolo che il soggetto che si vuole candidare sia uno che si è inventato la candidatura. No, ma su questo non c'è dubbio, nel caso di Formigoni non c'è dubbio, nemmeno nel caso del PDL, certo. Esatto, quindi in questo caso se la regola aveva lo scopo di dire facciamo in modo che emergano solamente dei soggetti che abbiano un sostegno da una certa fetta della popolazione, in questo caso il problema non ci sarebbe, per cui la regola sotto questo punto di vista sarebbe soddisfatta. Rimane solo chiaramente il problema formale, ma al di là di quello che può essere il formalismo, io credo che se Di Pietro ha fatto una dichiarazione così, vuol dire pacata, moderata, che di solito non è consono a fare queste cose qua, e proprio perché si rende conto che secondo me può diventare un boomerang politico per la sinistra. Perché andare può darsi che politicamente, ma questi sono discorsi che si faranno dopo. La ringrazio. Bisogna con grande senso di responsabilità evitare che magari qualche passaggio burocratico possa danneggiare la democrazia e quindi il diritto di voto. Io spero che la preoccupazione del Capo dello Stato in qualche modo serva a dare un contributo per risolvere al meglio questa questione, per dare a tutti i cittadini del Lazio ed oggi anche della Lombardia la possibilità di esprimersi il 28 e il 29 di marzo. Allora, è praticamente il secondo appello, il secondo riferimento di Renata Polverini al Presidente della Repubblica napolitano. Antonio Polito, direttore del Riformista, buonasera. Buonasera a voi. Allora, le chiedo subito una cosa. Moltissime persone mi hanno scritto facendomi questo ragionamento, che sarà pure terra-terra, però circola. Ma io, quando affronto la burocrazia, devo stare attento anche, dicono questi cittadini, devo stare attento anche al cavillo, le firme in un ricorso, i tempi di presentazione, eccetera, eccetera. Perché questo, quando invece sono i politici ad affrontarlo, può essere, diciamo, derogato? No, insomma, non può essere, non dovrebbe essere derogato, chiaramente. Tra l'altro, diciamo, queste vicende sono differenti l'una dall'altra. In alcuni casi si può parlare di cavilli, in altri meno, perché per esempio la lista del PDL nella provincia di Roma per le regionali del Lazio non è stata affatto presentata, quindi non è un cavillo, cioè no, non c'è, certo, proprio. Certo. E, naturalmente, intendiamoci, se tutta questa storia finisse con il fatto che per esempio Formigoni non si può candidare in Lombardia, sarebbe evidente a tutti che ci sarebbe le elezioni sarebbero falsate, anche gravemente falsate, no? Siccome il processo elettorale è una cosa importante, la scelta dei rappresentanti del popolo è una cosa importante, bisogna che i giudici, a questo punto i giudici amministrativi, perché ormai le corti d'appello si sono pronunciate in entrambi i casi, a questo punto i giudici amministrativi ragionino per verificare se si tratta appunto di difetti. Sai, anche la legge parla di vizi formali, vizi di sostanza, distingue tra vizi gravi, vizi di nullità e vizi non tali da invalidare un atto. Anche negli atti nostri privati, nei contratti di mutuo, di compravendita, no? Ci può essere un vizio sanabile, uno invece più grave che non si può sanare. Quindi a questo punto non possono che deciderlo loro, cioè chi però ha, secondo lei devono basarsi anche su, no, non solamente sull'aspetto formale, ma anche su quello, diciamo, sostanziale. Ma guardi, è una, purtroppo è una responsabilità enorme da dare a dei TAR, no? Il fatto che, diciamo, due TAR debbano decidere le sorti del governo di due grandi regioni, delle due più grandi regioni italiane, è improprio. Purtroppo succede ogni tanto, è successo anche negli Stati Uniti, che i giudici hanno dovuto decidere chi faceva il presidente degli Stati Uniti dopo un conflitto asperrimo sulle questioni appunto di singoli voti e così via. Però non è bello, insomma, non è bello, non è buono, è un segno anche, secondo me, della crisi di questa Seconda Repubblica e, se posso dirlo, della crisi del maggior partito della Seconda Repubblica, che è appena nato. Sì, perché tutti i casi riguardano il PDL, insomma, su questo non c'è dubbio. Perché, diciamo, qualsiasi sia l'esito, è evidente che l'origine è un errore o un'omissione o, diciamo così, qualcosa. Una superficialità oppure una lotta interna, Esatto. Ecco, però un'altra questione, secondo me, è questa. Con tutti i soldi, anche qui la butto un po' sul populistico, con tutti i soldi che i partiti prendono dal finanziamento pubblico, e sono tanti, soprattutto i grandi partiti, ora non si potrebbero impiegare un po' meglio per far funzionare anche queste regole, che se vanno male sono troppo burocratiche, secondo me sono sicuramente troppo burocratiche, per la presentazione delle liste, i faldoni, le 3500 firme, i timbri, le doppie firme invece di una sola firma, come nel caso della lista Polverini, e quello che rientra e quello che esce, i magistrati che decidono oltre, insomma, tutto questo o si riforma e sono gli stessi politici che devono decidere di riformarlo, però gli stessi che si lamentano di queste stesse regole adesso, oppure, siccome prendono un sacco di soldi di finanziamento pubblico, insomma, li spendessero per formare della gente a raccogliere le firme come si deve, a mettere i timbri come si deve, o no, insomma. Si facessero un ufficio elettorale, ma d'altra parte, diciamo, nella tanto vituperata prima Repubblica, quando esistevano partiti più strutturati, più storici, più robusti, c'erano diciamo interi pezzi di apparato destinati a questo tipo di operazioni, no? Sì, la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, il Partito Socialista avevano, diciamo, dei veri e propri apparati dedicati a questo, come inevitabile. Lei dice riformare, cambiare le regole, semplificarle, sì, si può fare ed è giusto forse farlo. D'altra parte, i radicali questa storia delle firme l'hanno soslevata da anni perché erano quelli che non riuscivano a raccoglierle e avevano difficoltà. Sì, sì. Però dobbiamo anche sapere una cosa, che poi alla fine, se vogliamo sostituire le regole esistenti, comunque le sostituiremo con altre regole. Diciamo, quelle regole. No, certo, perché altrimenti sarebbe una babele in cui si presenta. No, voglio dire, poi alla fine una regola ci sarà e una regola va rispettata. Forse questa è troppo complicata, non lo so, se ne può scegliere un'altra, ma pur sempre ci sarà, pur sempre bisognerà rispettarle e pur sempre i partiti dovranno fare attenzione a farlo. Certo, perché... certo. Senta, nel caso della Lombardia, ma forse anche nel caso del Lazio, però si assiste a che cosa? Al trionfo dei radicali, diciamo la verità, perché ci sono tutti i ricorsi, credo, presentati dai radicali con grande furbizia. Adesso Formigoni pochi minuti fa ha detto verifichiamo tutte le altre liste, però non c'è dubbio che dalla vicenda diciamo della par condicio, questo adesso è un discorso più generale, e dunque della RAI, per finire a quella delle liste adesso è tutta farina del sacco dei radicali. Sì, è vero questo, è assolutamente vero. Ma perché appunto direi che in questo, nelle contraddizioni di questa Seconda Repubblica, lei ha detto la par condicio è in sé una contraddizione, oppure il sistema di raccolta delle firme sotto le liste, nelle contraddizioni, talvolta nel caos diciamo di questa Seconda Repubblica, diciamo il granellino di sabbia radicale inceppa i meccanismi, loro lo fanno con grande determinazione e anche con grande esperienza, perché l'hanno sempre tentato di farlo, no? Tentato di provocare, di dimostrare che l'ingranaggio era fasullo, facendolo saltare col granellino di sabbia, insomma. E stavolta sembrano esserci riusciti, almeno in Lombardia e in Lazio. Senta, questo non c'è dubbio. Sì, un'altra cosa che riguarda la Russa, perché oggi al suo giornale Russa ha detto una cosa che è stata molto commentata oggi, anche se qualche accenno di una Russa furibondo c'era stato anche ieri sera in uno scontro memorabile con Bianca Berlinguer durante una trasmissione al TG3. È frutto di un nervosismo di fondo evidentemente nel PDL, una Russa che dice siamo pronti a tutto, scandendo. Cosa significa poi concretamente secondo lei? Ma insomma, è frutto di un nervosismo, però anche, intendiamoci, è frutto anche di una pressione, nel senso, cioè è finalizzato a esercitare una pressione politica su chi deve decidere, naturalmente entro i limiti della parola, anche legittima, qui abbiamo TAR e Consigli di Stato che dovranno prendere le decisioni e i partiti politici esclusi si fanno sentire. Tenga presente che domani a Roma ci sarà una manifestazione di piazza in difesa della Polverini e anche di conseguenza di Formigoni. La Polverini ha già detto vogliamo una prova di forza, e no? Spero che la Polverini, spero per la Polverini che ci saranno più persone rispetto a quelle dell'altro giorno, insomma. Sì, perché in questi giorni la maratona oratoria non è stata molto, molto seguita, affollata, però attenzione, perché insomma io poi troverei sbagliato che si stillasse in una parte del paese, quello che vota il centrodestra, l'idea che con qualche gabbola si sta tentando di impedire ai partiti di centrodestra di votare. Io trovo che oggi alcuni esponenti dell'opposizione come Casini, come lo stesso Di Pietro e tutto sommato anche Bersani stanno avendo un atteggiamento giusto, cioè di tirarsi fuori da questa roba, di non festeggiare l'ipotesi che sarebbe comunque sciagurata e triste per la democrazia che in Lombardia in realtà non si svolgono elezioni vere, perché non c'è il contendente, non c'è il Lazio è diverso, perché in Lazio in realtà la candidata Polverini è azzoppata ma non esclusa, mentre invece in Lombardia quanto può perdere la Polverini se alla fine dei ricorsi il PDL non fosse ammesso in provincia di Roma? Secondo me molto, cioè molto in un'elezione che ha abbastanza testa a testa. Beh, no? Però gli elettori di centrodestra potrebbero convergere sulle altre liste, diciamo, in teoria, no? Sì, ma non è quello il punto è che una lista anche di un partito come il PDL, che è grosso, è molto grosso in provincia di Roma, vuol dire anche la mobilizzazione di decine di candidati che mettono manifesti, che non c'è dubbio, non c'è dubbio, certo. Che trascinano al voto la gente, cioè secondo me non è che gli elettori di centrodestra votano dall'altra parte non trovando il PDL, ma molti potrebbero essere, diciamo così, non potrebbero non avere l'incentivo che spesso nel voto di scambio o anche nel voto di relazione non c'è dubbio, certo, esiste, certo. No? Quindi insomma i sondaggisti lo calcolano in un effetto abbastanza rilevante. 2% mi sembra, sì, una cosa 2-3 anche, sì. Siccome siccome il distacco poi non era molto superiore a questo, potrebbe essere determinante. Bene, grazie, buona serata. 19.55, beh, insomma, la russa sull'Otito è uno dei cult di questa sera, sentite. L'unico modo per sperare di vincere è di correre da sola. Ecco, ma allora non perché riuscirebbe a vincere neanche se corresse da sola. Allora perderebbe contro l'Otito, ministro, come dice la battuta. Allora, Claudio da Bologna, buonasera. Claudio, buonasera, caro Claudio, bene. Come sta? Bene, una piccola chiosa riguardo all'elezione di Bush, che fu, penso, la di prima Bush, la di Bush, la prima, sì, la prima di Bush, in cui ci fu il riconteggio. 20.000 voti il candidato democratico, Al Gore, e sì, voti dei grandi elettori della Florida, che era governata dal fratello di Bush. Jeb Bush, sì. Esatto, e allora questa persona, il candidato democratico, accettò tranquillamente la sconfitta. Immaginiamo cosa sarebbe successo in Italia se per 20.000 voti su 150 milioni di votanti, no? Beh, Claudio, in realtà c'è un precedente in Italia. Nel 2006 ci fu una sconfitta di misura del PDL alla Camera, appunto credo per 20.000 voti, se non addirittura meno. E poi si è andati avanti per 2 anni con la vittoria rubata, la frode, il trucco addirittura, eccetera eccetera. Siamo qui, 20 in punto, TG5. Elezioni regionali, ricorsi respinti a Milano per la lista Formigoni e a Roma per quella del PDL. Si annunciano ricorsi al TAR, il PDL così si falsa il voto, democrazia a rischio. Riciclaggio, il Senato approva le dimissioni di Di Girolamo. Non ho portato l'andrangheta a Palazzo Madama, ora sarà arrestato. Per l'omicidio a bastonate dell'avvocato palermitano Fragalà, indagato un ex cliente, l'ipotesi di una vendetta per una difesa non andata a buon fine. Strage di Erba, in vista dell'appello, la difesa di Olindo e Rosa accusa i Castagna, la famiglia. Solo colpi bassi, siamo al delirio. Guidano oltre gli 80 anni, navigano su internet, il 32%, fa sport, anziani sempre più attivi e in buona salute, consigli e segreti. Lui bianco, lei di colore o viceversa, in Italia le coppie miste crescono al ritmo di oltre il 9% l'anno. I nostri figli, il futuro dell'integrazione. Chi lo consulta sempre, chi lo sbircia appena, non tramonta il successo degli oroscopi e ci crediamo, soprattutto se sono positivi. TG1. Regionali, confermata l'esclusione di Formigoni, che dice verifica su tutto, fuori il PDL a Roma, annunciati ricorsi al TAR. Di Girolamo non è più senatore, approvate le dimissioni dopo il suo intervento, magari in aula, ora può scattare l'arresto. Il massacro di Novi Ligure, voglio stare tranquillo, così Omar tornato libero dopo 9 anni di carcere. Un ragazzino dirige il traffico aereo a New York, registrata la sua voce che impartisce indicazioni ai piloti, inchiesta in corso. La finanziaria è un movimento politico, lo scudo fiscale è una strategia di guerra, ecco alcuni degli strafalcioni raccolti. Parrucchieri fai da te, la moda arriva dall'America, colore, piega e taglio realizzati dagli stessi clienti con notevole risparmio. Fiorella, eccoci qua da Bologna, buonasera. Buonasera. Prego. Allora, io sono un'elettrice di sinistra, sì. Non sono una dipezzista, però sono anche d'accordo che non si può vincere facile e in effetti cioè, cercherei di trovare una maniera per far votare, diciamo, la Lombardia. Cioè per ammettere Formigoni Lombardia, ma ormai lo devono decidere i giudici amministrativi. Mi piace che non ci siano le persone che vanno al voto. La cosa però che io altrettanto chiedo come cittadina è che si trovi altrettanto una maniera di togliere via i cavilli che non permettono al talk show di informazione di essere, di aver eliminato una serie di trasmissioni che non potevano trattare argomenti. Sì. Fiorella, anche io lo trovo sbagliato. È sbagliatissimo. Allora, la RAI dice io, cioè lei prima ha detto con una cosa, ma la RAI può mandarli in onda. No, la RAI va incontro a sanzioni se li mandi in onda e ha deciso pertanto. Sì, ma questa è l'interpretazione, diciamo, dell'azienda, no? Vabbè, però le sanzioni, allora o la RAI dice delle cose che non, il presidente della RAI dice delle cose non vere. Il direttore generale, sì. Perché altrimenti se le sanzioni ci sono vuol dire che c'è una legge che fa le sanzioni. Sì. Allora io dico, bene, facciamo una cosa, io sono come cittadina, chiaramente non conta niente, però perché da un lato si vada a rivedere questi aspetti e dall'altro si troverà la maniera per far votare cose bene, perché se no altrimenti vincere facile, certo che non sono d'accordo, ma vincere facile, cioè altrettanto, togliendo via l'informazione di quello che succede, allora altrettanto. Va bene, ho capito Fiorella, grazie. Intanto viene fuori dalla Corte d'Appello di Roma una cosa curiosa, è una cosa ufficiale. Dagli atti a disposizione della Corte d'Appello è emerso che alle 12 non c'era nessuno della PDL in sala e che alle 12.30 tutto è stato chiuso. La Corte ha spiegato che per giungere a questa conclusione ha esaminato tutti gli elementi, compresi i verbali delle forze dell'ordine, che attesterebbero il ritardo. Dunque questa cosa smentisce anche clamorosamente quello che diceva la russa ieri sera Bianca Berlinguer, cioè dire ci sono i verbali delle forze dell'ordine che attestano che c'è stato un impedimento, che è stato impedito alla lista del PDL di presentarsi, di presentare i plichi con le firme e con le candidature. Secondo quello che sostiene la Corte d'Appello di Roma, alle 12 non c'era nessuno, alle 12.30 è stato tutto chiuso. Milioni, dove sei? Alfredo Milioni. Siamo arrivati qui, mi sono messo a chiacchierare con un po' di persone. 11:30, come tutti questi qua, 11:30. Siete usciti e siete rientrati quando vi abbiamo visto a mezzogiorno e 45? Eh sì, perché c'era, io l'ho chiamato, ho approfittato per mangiare qualcosa e visto che c'era, lui stava ancora qui, sono rimasto fuori. E ho mangiato, sono tornato tutta tranquillità. Beh, devo dire la verità, se la presentazione delle liste a Roma è affidata a personaggi pittoreschi come Alfredo Milioni, allora si può finire anche malissimo per quello che riguarda il PDL. Eravamo con Claudio da Bologna, cerchiamolo ancora sto Milioni. Prima ci ha risposto la segretaria dicendo che aveva lasciato il telefonino là, forse la prima voce allora era la sua, però ci è sfuggito. Claudio, prego. Salve. Allora, come voleva concludere questo intervento, Claudio? Niente, volevo fare due piccole considerazioni. Intanto che quale cosa sia accaduta, penso che al di là di tutto l'immagine della PDL viene fuori assolutamente ridimensionata, ridicolizzata. Io mi auguro che vengano tutte le liste in qualche maniera, con qualche artificio italiano, riammesse. Ovviamente fossi un elettore, e non lo sono, della destra, del centrodestra, valuterei bene, perché c'è stato una dabbenaggine e un pressapochismo assolutamente gigantesco. Poi, seconda veloce considerazione, il mio ministro della difesa non può minacciare, faremo di tutto alla televisione, non può minacciare ripercussioni che possono andare avanti con la fantasia. Allora, vabbè Claudio, penso che la russa si riferisse a faremo di tutto dal punto di vista legale, non è che chiama l'esercito per intervenire e far riammettere la lista del PDL in Lombardia e nel Lazio, insomma, no, mi sembra. E non lo può dire, perché allora la ragione Grillo, quando su Rai News 24 dice comincerete a sentire il rumore degli elicotteri. Questa no, Grillo dice delle stupidaggini sesquipedali su Claudio. Sì, d'accordo, però allora anche il mio ministro della difesa ha detto una signora stupidaggine. Ah, non c'è dubbio, perché bisogna chiarire che cosa significa fare di tutto. Stupidaggine. Perché no, ho capito, sto dicendo, bisogna chiarire cosa significa faremo di tutto quando lui scandisce. Chiarire, faremo di tutto, lei l'ha rimarcato con paragone. No, ma per carità, Claudio, abbiamo sentito anche ieri sera, oltre che nell'intervista di oggi al Riformista, anche nella performance ieri sera con la Berlinguer a Linea Notte del TG3, abbiamo sentito che era piuttosto su di giri la russa. Ma sembra una minaccia, adesso diciamo le cose come stanno. Sarà una minaccia, non lo so, non credo che sia una minaccia, perché cosa può fare concretamente? È una minaccia politica, diciamo, faremo di tutto, scenderemo in piazza, faremo manifestazioni, in questo senso, altrimenti cosa può fare? Ho capito, ma cosa può fare di concreto? Sono nati, come vanno avanti e via discorrendo. No, io non lo so come vanno avanti. Non glielo dico, non lo so neanche io, si immagini un po'. No, l'ultima, appunto. Voglio dire, lei cosa teme? Questo è il punto, Claudio. Cosa teme? Che intervengano le baionette? Prego? Cosa teme lei? Che a un certo punto intervenga l'esercito, le baionette? Ma io non penso che intervenga l'esercito, anche se sono stato organico all'esercito, però so che ci sono delle persone che sono pronte ad uscire dalle caserme. E chi sarebbero queste persone? Ci sono, ma immagini se gliele dico in questo momento. Cioè, Claudio, secondo lei teme che la Russa a un certo punto, visto che il PDL non si può presentare come lista in provincia di Roma e forse Formigoni viene escluso, fa intervenire qualche generale? Non credo, così è un po' troppo semplice. Ma io penso che la pressione non sia solo politica, sia anche un pochino fisica, sul fisico. Questa è una cosa che il ministro della difesa non dovrebbe mai dire. Ripeto, fosse stato il ministro delle politiche agricole, ma il ministro della difesa ha un'altra responsabilità e non lo deve dire. No, Claudio, su questo sono d'accordo con lei, che non si può lasciare margini all'ambiguità in questo caso. Siamo qui 20:13. Intanto mi suggeriscono che, al contrario di quello che diceva l'ascoltatore, i voti di differenza in Florida nella prima elezione di George Bush furono solo 500, e in realtà si presentarono un sacco di ricorsi. Cioè, non è che lo sfidante democratico Gore poi accettò così di buon grado la esclusione. Certo, a un certo punto tutto finì perché poi le cose a un certo punto negli Stati Uniti finiscono, non è che ci sono 45 gradi di giudizio come in Italia. Dove andiamo? Andiamo a Roma. Venanzio, buonasera. Sì, buonasera dottor Cruciani. Dica. L'ascoltatore, il signor Claudio, di poco fa ha detto in pratica quello che volevo dire io. Io sono rimasto sconcertato dalle affermazioni di La Russa, poiché un ministro dovrebbe essere un elemento di garanzia per quanto riguarda noi italiani. Se vuole fare il ministro di garanzia del PDL, lo facesse, ma non faccia il ministro. Nessuno gli ha chiesto di fare il ministro della difesa, è lui che mi deve difendere. Se io da un ministro mi sento dire siamo pronti a tutto, e allora in caso di cose più grandi, di una qualsiasi cosa, che faremo? Perdiamo la testa subito. Risentiamo un po' La Russa? Allora, le faccio che non ci rassegneremmo. Non pensi che possa esserci un verdetto che accettiamo? Allora, le faccio un'ultima domanda. Non accetteremo nessun verdetto di esclusione. Non accetteremo nessun verdetto di esclusione. Paradossalmente questa è addirittura più forte di siamo pronti a tutto, perché non accetteremo nessun verdetto di esclusione significa che se il TAR è categorico. Se il TAR dovesse sostenere che la lista del PDL a Roma e Formigoni in Lombardia sono esclusi, allora non ci rassegneremo. Che vuol dire? In che modo? Secondo me è sbagliatissimo esprimersi in questo modo, frutto probabilmente di un nervosismo, di una situazione che è esplosa, e però insomma non è che si può pensare che succedano delle cose particolari, no? No, io le dico soltanto una cosa: mio padre è stato fucilato nelle Fosse Ardeatine. Perché c'entrano le Fosse Ardeatine adesso? 4 di marzo, ogni anno, per fortuna da un anno fa è successo. Sì. Mi vedo il ministro La Russa, il ministro della difesa. E allora? Adesso il 24 marzo lui verrà alle Fosse Ardeatine. Allora che c'è? Ma io chi vedo? Un ministro o un ministro di partito? I ministri sono sempre di partito, Venanzio, però questo non è un grande argomento, secondo me. È uno dei coordinatori del PDL, può dire è improprio essere coordinatore del PDL anche ministro della difesa o qualsiasi altro ministero, non ha importanza. Questo è un altro discorso. È chiaro che La Russa fa politica, non è che fa solo il ministro della difesa, non può fare magari quelle dichiarazioni, ma non è che non può fare politica. No, a quel punto non ha fatto più il ministro, ha fatto solo politica. Su quello non c'è dubbio. In quel caso si esprimeva sulle elezioni, certo, non è che si esprimeva su cose della difesa. Venanzio, però ho capito il suo punto di vista, non è che lo voglia trascurare il suo punto di vista, perché è importante. No, perché... Lei dice si è sentito toccato da queste parole di La Russa, quando un ministro della difesa dice siamo pronti a tutto, non ci rassegneremo di fronte anche a un'esclusione, possono venire strani pensieri, no? Ecco. Vabbè. Però si calmi, Venanzio, non succede nulla. Sono frattaglie della politica. Nelle due città principali, a Roma e a Milano, L'hanno voluto colpire. Come è possibile? Allora cosa vuol dire? Lo chiede lei? Io me lo se lo chieda. Io non me lo chiedo. Se lo chieda. Ci sono delle regole che devono essere rispettate. Che sono state rispettate. Stabilirà il magistrato. E c'è un'attività tesa a cercare il pelo dell'uovo. Sa perché? Perché? Perché la sinistra ha perso con noi sempre da un po' di anni. L'unico modo per sperare di vincere è di correre da sola. Ecco, ma allora non perché? Riuscirebbe a vincere neanche se corresse da sola. Allora... Perderebbe contro lo Tito, ministro... come dice la battuta. Allora, però... Gli piace vincere facile. Vabbè. Come facciamo inutile a vincere? Che si eliminiamo scalda. Gli altri. Inutile. Vabbè, non so nemmeno se esista questa battuta, perderebbe anche con lo Tito la sinistra del Lazio, forse la sa la Russa oppure gira del mondo politico. Romano, vi devo due notizie che sono importanti, una drammatica perché c'è stato questo incidente, come avete sentito dai titoli, in Spagna e pare che ci sia un italiano morto, vi leggo l'agenzia ANSA, c'è anche un turista italiano tra le vittime dell'incidente avvenuto oggi su una nave da crociera in Spagna. Lo dice il quotidiano Il Piccolo Online, riferendo di aver appreso la notizia da un passeggero italiano. L'altra notizia riguarda il senatore Di Girolamo che si trova in carcere pochi minuti fa, si è costituito. Alle 20.19 altro La Russa, altro La Russa del giorno. Adesso è davvero vogliamo dire davvero che la lista non è stata presentata perché sono sdraiati i radicali, cioè, guardi, una spiegazione un po' semplicistica. Bianca Berlinguer, però... no, le devo dire perché questa non la posso lasciar passare. Ma adesso non lo dico poi io, me lo dice. Lo dicono i carabinieri, c'è un rapporto dei ma carabinieri, allora come mai li abbiamo stata denunciati alla magistratura. Come mai non è stata denunciata subito questa violenza immediatamente? È stata denunciata al giorno dopo. Ma perché pensavamo come mai che non dentro c'è stata l'immediata coloro denuncia che avessero, di questa violenza, coloro, pochi che minuti dopo. Coloro che hanno il dovere di far rispettare. Beh, dalla ricostruzione della Corte d'Appello che ha pronunciato il verdetto di esclusione del PDL nel Lazio non sembra che il rapporto dei carabinieri coincida con quello che dice La Russa, però insomma lì dovremmo conoscere le carte. Intanto la Farnesina sta naturalmente verificando la notizia diffusa sulla morte dell'italiano nella nave da crociera travolta da un'onda gigantesca, ma abbiamo uno dalle missioni impossibili. Iniziamo oggi con quei candidati che non ce la possono fare, che oggettivamente poi loro ci diranno che naturalmente sono lì per vincere, sono lì per combattere, eccetera, però non ce la potranno mai fare. Noi vogliamo capire chi sono e perché si candidano. Iniziamo con la Puglia, con Michele Rizzi, buonasera. Buonasera a voi. Come sta Rizzi? L'accetta questa cosa che non ce la può fare oppure ci dice, perché lo deve dire per forza, che insomma si corre e vabbè, vediamo come va a finire. Non si sa mai, bisogna verificare tanti fattori. Direi che La Russa lo posso battere anch'io in Puglia. Cioè non, chi è che può battere lei in Puglia? La Russa. Beh, adesso vuole Puglia, battere la Russia. Io sono sicuro che in un collegio tra lei e La Russa vince La Russa. No, ma non è detto. Non è detto. Vabbè, lei si candida per una lista che si chiama Alternativa Comunista. È così? Alternativa comunista. Ma io vorrei capire una cosa, Rizzi, quanti sono i candidati in Puglia? Ricapitoliamo. Allora, c'è il presidente uscente Vendola, no? Sì. Appoggiato dal centro-sinistra tradizionale. PD, la vecchia Unione, PD, Italia dei Valori. Italia dei Valori, Sinistra e Libertà, Rifondazione Comunista, PD. C'è la Federazione della Sinistra, Radicali. Ci sono i radicali, vabbè, con una lista loro ci sono i radicali anche là. Sì, sì, con una lista, però non in tutte le province. Poi ci saranno varie liste che appoggiano il presidente. Quante sono le liste che appoggiano Vendola? Allora, in tutto sono in sei. Sei liste che appoggiano il presidente. Poi sì, c'è il centrodestra ufficiale. Diciamo, centrodestra, che è quello di Rocco Palese, giusto? Sì, Rocco Palese. Sono poi c'è la Poli Bortone con le sue liste, beh, se noi facciamo l'elenco delle liste di Palese, la Poli Bortone con Io Sud. Io Sud, MPA e UDC. Poi c'è lei? E poi c'è la lista più forte, che è quella di Alternativa Comunista. Basta? E basta, sì. Cioè, sono quattro candidati di presidenti, no? Sì, mi chiarisca sta cosa. Sono quattro. Lei che si presenta a fare, Rizzi? Ma io mi presento per dare la possibilità di rappresentare delle lotte concrete che stiamo facendo un po' in tutta la Puglia e non solo. Sono lotte concrete di operai, gli operai della Barsa di Barletta che hanno occupato i tetti, gli operai della Delchi di Tricase che hanno occupato il municipio perché si sono vista la fabbrica chiusa dopo che il patronato ha preso tantissimi soldi anche della regione Puglia, del centro-sinistra, e poi ha lasciato questi operai senza un lavoro e senza un minimo di reddito e quindi di sostentamento. Senta, lei che lavoro fa, Rizzi? Io sono un precario di un call center. Ah, proprio, cioè... La fotografia del candidato, la fotografia di un candidato di Alternativa Comunista. La particolarità è proprio quella, ma anche le nostre liste sono piene di disoccupati, precari, studenti del movimento contro la Gelmini, rappresentanti di... Ma un occupato ce ne sarà, no, dentro le vostre liste? Uno che c'ha un lavoro fisso, ci sarà o no? Qualcuno c'è, sì, sì, impiegati comunali e poi piccoli commercianti che avvisano anche loro la crisi pesantissima capitalista che sta battendo anche su crisi loro. Capitalista. Senta, ma insomma, io voglio dire, voi in Puglia un candidato di sinistra in realtà c'è, Nicola Vendola, Nichi Vendola, abbia pazienza, caro Rizzi. Vendola è proprio un candidato di sinistra. Le lotte contro il precariato, insomma, tipico candidato che può, no, che può attrarre anche il voto, e infatti viene appoggiato dalla federazione di sinistra. Ma come lo giudica Vendola lei? Ma sa qual è? Che visto da lontano e non conoscendo effettivamente i 5 anni del governo Vendola, si direbbe che Vendola è il più a sinistra che ci sia. Beh, così l'impressione è quella, invece no. L'impressione è quella, è un'impressione sbagliata. Evidentemente noi che lavoriamo sul territorio con precari, disoccupati e lavoratori, sappiamo che c'è un'altra realtà. Ma lei come lo definisce Vendola? Questo vorrei capire. Vendola fa parte di una sinistra che è una sinistra riformista, socialdemocratica. Un borghese. Niente di più. E fa parte di un polo che è un polo borghese, non è altro. Perché come lo definirebbe centrosinistra, un polo di centrosinistra che finanzia il padronato, che delocalizza, finanzia le scuole private. Ma insomma, lei invece come si definisce nella galassia? Scusi un attimo, Rizzi, lei invece nella galassia comunista che va, diciamo, dalla federazione di quelli della federazione di sinistra, adesso bisogna fare un po' di ordine in questo casino, in questo Big Bang che c'è stato, diciamo, dal 2008 in poi. C'è la federazione di sinistra che raccoglie Di Liberto con Ferrero e forse anche altri. Lei è ancora più a sinistra di questi, giusto? Allora sì, c'è una linea di demarcazione chiara. Cioè, per esempio, tra lei e Ferrero, scusi un attimo se la interrompo perché bisogna chiarire agli ascoltatori. Tra lei e Ferrero che differenza c'è? La differenza è che loro scelgono di stare al governo con il padronato e con la borghesia, con i partiti liberali, l'hanno fatto sia con Prodi e sia con... Invece voi siete quelli puri, diciamo, da questo punto di vista. Non siamo puri, noi siamo anticapitalisti. Va bene, dunque lei come si definisce? Trotskista? Come si definisce lei? Trotskista. Siamo un partito nato da qualche anno che è di chiaro orientamento trotskista. Chiaro orientamento? E che vuol dire orientamento trotskista? Orientamento trotskista, il trotskismo è un orientamento, una corrente del movimento operaio che è antistalinista e che è contro la collaborazione. Ma Stalin non c'è più però. Sì, no, dico come orientamento. No, da storico, d'accordo, ma insomma, applicato oggi, essere trotskisti, che vuol dire? In realtà significa che noi siamo contro per l'indipendenza di classe, quindi dei lavoratori rispetto al padronato e chiaramente per la costituzione di un partito comunista autonomo e quindi alternativo e indipendente dai partiti della borghesia, questa è sostanza. Il trotskismo è l'attualizzazione. Ok, ma come si fa ad applicare, cioè nel senso, come si dovrebbe cambiare tutto, cioè fare la rivoluzione con le armi in pugno, altrimenti come si cambia il sistema? Voi non siete per la rivoluzione armata, per carità. Noi il sistema lo cambiamo, lo vogliamo cambiare partendo appunto dall'auto-organizzazione, dalla costituzione dei comitati operai, comitati dei precari che stiamo costituendo in Puglia e non solo. Allora, niente violenza però, niente violenza però. La violenza attualmente non è necessaria, perché abbiamo la necessità appunto di ricostruire una coscienza di classe, ricostruire una soggettività di classe. Il partito di Alternativa Comunista ha questa funzione ormai da 3 anni a questa parte, non solo in Puglia ma in tutta Italia. Ah, perché siete in tutta Italia pure, Rizzi? Certamente siamo in tutta Italia e siamo legati a un'internazionale comunista che... Senta, ma poi come si fa? Perché pure gli altri si chiamano comunisti però, Ferrero con Rifondazione... ci sono quelli di Diliberto pure comunisti, poi c'è anche l'altro, come si chiama, Ferrando, voi con Ferrando che rapporti avete? Ma sa quanti si chiamano Michele come me, però non siamo tutti uguali evidentemente. Cioè lei dice i veri comunisti siamo noi differenti. Ma noi abbiamo fatto una scelta chiara, . Il marxismo per noi è questo, il marxismo è nelle lotte, nella costituzione appunto. Beh, ma questo lo dice pure, scusi un attimo, questo l'ho capito, ma questo lo dice pure Ferrero, lo dice pure... Sa benissimo qual è, nel programma reale. Allora non si può evocare, non si possono evocare le lotte se poi ci si allia ad esempio con la Bonino nel Lazio che... propose il referendum per abrogare l'articolo 18. Ho capito, ho capito benissimo, ho capito. Senta Rizzi, un'ultima cosa, ma insomma, lei Vendola come lo definisce? Un borghese? Ma Vendola è un socialdemocratico che fa gli interessi della borghesia. Fa gli interessi della borghesia. Va bene, quanto spera di prendere lei, Rizzi? 1%, 2%, quanto spera di prendere? Ma io spero di costituire quanti più comitati operai, comitati di precari, costruire quanto più un argine contro la crisi capitalista per farla pagare al padronato e non ai lavoratori come generalmente succede. Che paghi il padronato. Noi diciamo un'altra cosa. Che dice? Ma senta, ma lei di dov'è? Perché là, sa, c'è sempre una divisione dei candidati, i baresi, i leccesi, i tarantini. Lei, da questo punto di vista, sono una novità perché sto in mezzo, sono di Barletta. Lei è di Barletta. Quindi conosco bene Michele Rizzi da Barletta, che vuole abolire il capitalismo in Puglia o in tutta Italia. Beh, sicuramente in tutta Italia, perché i trotskisti non si vogliono limitare alla Puglia. La borsa, grazie Rizzi. Dora, kiss and a conjura. If all to say will be too hard, you die a sip of fire. Siamo arrivati qui, mi sono messo a chiacchierare con un po' di persone. 11:30, come tutti questi qua, 11:30. Siete usciti e siete rientrati in macchina. Quando vi abbiamo visto a mezzogiorno e 45? Sì, perché c'era, io l'ho chiamato, ho approfittato dove mangiare qualcosa e visto che c'era, lui stava ancora a piedi, sono rimasto fuori e ho mangiato, sono tornato tutta tranquillità. Mauro da Milano, buonasera Mauro. Buonasera Cruciani, buonasera a tutti. Visto che c'è spazio per i trotskisti o i nazi maoisti, ci sarà spazio anche per una mia opinione. E la mia opinione... nessuno lo metteva in dubbio che ci sarebbe stato spazio per la sua opinione, Mauro. Grazie. E a questo punto non ho capito la premessa, poi me la spiega. No, sì, dopo gliela spiego volentieri. Sì, grazie. Io sposo il concetto che lei sosteneva prima, per cui l'idea popolare della sconfitta della democrazia che fa soffrire più di non un esito elettorale. E spiego perché. Perché giustamente... io, come tutti gli altri cittadini, dinanzi a un concorso pubblico, non rispettando la forma e i tempi, lei stesso diceva che l'ha approvata la questione, sì. E noi si paghi con, giustamente, il rispettando quelle che sono le leggi e le disposizioni di legge. Quindi non è giusto che privatamente venga stabilito che cosa sia la democrazia, e questa è probabilmente la vera sconfitta di coloro che credono veramente nel senso dell'elettorato, del voto e dell'espressione in senso democratico. Non ho capito niente, mi scusi Mauro. La sconfitta di chi? No, è la sconfitta del senso della democrazia, perché Polverini... Ma la sconfitta del senso della democrazia che vuol dire? Chi sarebbe sconfitto? No, è sconfitto il senso sacro della giustizia, in questo senso le spiego. Ma sconfitto quando? In che momento? Ecco, nel momento in cui, non rispettando la forma, si invochi una sostanza ho capito. Rispetto delle regole. Cioè quando la Polverini dice, per esempio, domani faremo una prova di forza in piazza, eccetera, o comunque la burocrazia non può vincere sulla democrazia, certo. Secondo lei invece è proprio l'espressione massima del disprezzo della stessa democrazia, giusto? E così come anche si è espresso l'onorevole La Russa, il quale non può permettersi di lasciare a false, cioè tra le righe, di mandare un messaggio chissà di quale natura o di quale portata. Ebbene, loro che sono i fautori delle leggi si sottomettano alla legge, perché sennò andrebbero contro la dignità popolare. Però mi permette anche un concetto. Prego Mauro. Intanto La Russa ha specificato quello che voleva dire. Ogni iniziativa sarà nei limiti della democrazia e della legalità, naturalmente. Mauro, allora cosa voleva dire ancora? Ecco, mi fa un po' più dispiacere nel pensare che attraverso il TAR, lei diceva durante l'inizio della trasmissione, sì, che molto probabilmente Formigoni sarà comunque candidato. No, io non ho detto questo, io ho detto la mia previsione è che Formigoni sarà candidato in Lombardia, la mia previsione, perché insomma lo dice, se vogliamo, anche la logica, però non è detto, in questa situazione è possibile anche che venga escluso con Formigoni le liste della Lega, eccetera. Diciamo la verità, cioè, sarebbe una cosa un po' ridicola alla fine da un punto di vista politico, da un punto di vista politico, probabilmente corretto da un punto di vista della forma, da un punto di vista politico sarebbe una corsa assurda tra i candidati in Lombardia, resterebbero Agnoletto, Penati naturalmente, quello dell'UDC, Pezzotta e credo un altro candidato di Forza Nuova, di estrema destra. Comunque a cospetto dell'elettorato di pari dignità dell'onorevole, di qualsiasi altro onorevole. Sì, no, ma nessuno dice che non sono degni, Mauro, non è questo il punto. Sto dicendo semplicemente che le elezioni, la corsa a governatore in Lombardia non sarebbe la stessa, evidentemente sarebbe un'altra cosa, o no? Ma io credo che non. No. A questo punto dobbiamo fare un distinguo. A questo punto, o la forma o la sostanza. No, Mauro, io sono d'accordo con lei. Sono tre giorni che insisto su questo: che i partiti, siccome hanno il finanziamento pubblico, prendono un sacco di quattrini, dovrebbero spendere soldi per far rispettare le regole che loro stessi creano. Per cui, di che stiamo parlando? Sono d'accordo con lei. Certo. Dopodiché vedremo se verranno fatti i controlli sulle altre liste, vedremo che le regolarità probabilmente si possono trovare ovunque. Grazie. Fabio da Firenze. Sì, buonasera Luciani. Ancora su queste liste escluse all'argomento di oggi. Sì. Io sono veramente sconcertato da questo rifiuto tutto italiano, questa allergia a non voler accettare che le leggi con caviglie e contro caviglie esistono e devono essere rispettate. Ho sentito parlare di far prevalere la sostanza sulla forma oppure l'interesse generale e la democrazia. Sì, potrebbe anche essere giusto, però vorrei soltanto ricordare che per decorrenza dei termini, errori burocratici o vizi di forma in generale, sono successe per esempio nella mala giustizia, scarcerazioni di pericolosi mafiosi o terroristi. Eppure in quei casi lì non ho sentito invocare la sostanza di doverli tenere in carcere in quanto comunque già colpevoli, oppure l'interesse generale della collettività a tenere in carcere persone pericolose. Sì. Quindi ora in questi casi qui perché si deve dire siccome è ridicolo allora sarà passato, sarà candidato lo stesso, passerà lo stesso? Io non ho detto, io faccio una previsione anche sulla base della discussione che abbiamo fatto nei giorni scorsi. Il TAR, ma ragionando in punta di diritto, non per motivi politici, potrebbe riammettere la lista di Formigoni, dunque tutte le altre liste, eccetera, sulla base di discorsi sostanziali, che però si basano su sentenze passate, su sentenze della giustizia amministrativa. Insomma, come lei sa, le regole da questo punto di vista possono essere stiracchiate da una parte e dall'altra. In Italia una regola può essere interpretata in milioni di modi. Secondo me comunque è molto più grave che per questi cavilli burocratici o decorrenza dei termini sia fuori un pericoloso criminale che non che la polverina o un Formigoni. No, su questo, Fabio, questo è scontato che sia così. È evidente che è più grave quello piuttosto che la mancata di candidatura di qualcuno. Va bene, grazie. Paolo da Novara. Oh, buonasera Cruciani. Dica. Senta, io ho sempre a proposito di questa questione delle liste presentate in ritardo, insomma, con degli errori, eccetera. Cioè, ho sentito lamentarsi la Russa prima, in generale in questi giorni un po' tutto il partito, si rende il diritto di voto dei cittadini. Io non so se è stato detto prima perché non sono riuscito ad ascoltare tutta la trasmissione, però il diritto di voto viene leso quando ci sono i piantoni fuori dai seggi che tirano fuori la gente, perché qui la gente andrà a votare regolarmente e il partito che si è comportato secondo le regole, che tra l'altro loro stessi possono tranquillamente discutere in Parlamento quando ancora lo fanno, le regole hanno fatte loro, insomma, come diceva giustamente lei prima. Io ho un amico che si candida in Piemonte per il Movimento 5 Stelle, vabbè, lasciamo perdere il merito della questione, che per diciamo eccesso di zelo, per paura di avere dei problemi, ha fatto la notte lì davanti al tribunale. Chi lo vuole fare lo fa, le regole sono quelle. Poi lasciando perdere la polemica del panino, insomma, la pennica da Roma in giù, secondo me non sono delle polemiche che portano a una conclusione che è un po' complottista, però io gliela butto lì, poi so che lei con queste cose ci va. No, quale sarebbe la versione complottista? La versione che, cioè, io lo trovo abbastanza assurdo, perché comunque è un caso talmente eclatante che proprio in Lombardia e in Lazio il PDL, favorito, comunque grosso partito, eccetera, caschi su delle cose talmente piccole. Secondo me qui, cioè, non so, la butto lì, la volontà da parte di un partito di dimostrare di essere in grado di stravolgere anche le regole quando sono talmente chiare, no, che... Ma adesso questo francamente mi sembra esagerato. Atlantide di Tommaso, la ringrazio. Buonasera, no, Di Tommaso. Di Tommaso? Pronto? Sì, buonasera, Di Tommaso. Sì, esatto. Salve, Atlantide Di Tommaso, segretario romano del Partito Socialista, lei? Sì, sono io. Come va? Molto bene. Senta, ma le querele sono arrivate o no? Ma guarda, io ne ho fatta una di querela. A chi? La Polverina ha dichiarato che dei teppisti hanno impedito ai presentatori della lista del PDL di intervenire. Io ho detto che sono tanti difetti, ma non sono un teppista. E dunque, beh, c'è stato. Lei che ha fatto? Vuole portare la Polverina in tribunale? Ma una querela per diffamazione, poi vediamo, per calunnia, insomma. Poi vediamo come va a finire, insomma. Non è detto, certo, che prosegua. Guarda, io sono contrario al ricorso ai tribunali, penso che la politica non debba ricorrere ai tribunali. Però lei si è sdraiato. Sì, sdraiato come manifestazione pacifica a controllare che tutto andasse bene, perché lei sa benissimo. Ma dove si è sdraiato fisicamente? Perché questo ancora è da chiarire. Sui piedi dei carabinieri, no, io lo dico. Sui piedi dei carabinieri. Sui piedi dei carabinieri? No, non materialmente sulle scarpe, ma attaccati ai piedi dei carabinieri e della polizia. E dov'erano i carabinieri della polizia? Guardi, davanti alla stanza dove si entra, dove, fisicamente com'era? Le faccio un esempio: c'è un corridoio che finisce con un atrio grande, in questo stanzone c'è un'ulteriore stanza che poi dove si consegnano materialmente i plichi per la presentazione delle liste. I carabinieri hanno praticamente una sorta di linea di demarcazione che impedivano di accedere oltre la linea, allo stanzone. Questo a che ora? Questo a che ora si sono messi là i carabinieri? Guardi, i carabinieri si sono messi, dopo mia insistenza, verso mezzogiorno e 45, forse 40. Lei da gran furbacchione ha visto, qui c'è l'occasione di escludere le liste del PDL, mettiamoci la, chiamiamo no, i carabinieri. Non sapevo neanche che era del PDL, io non sapevo neanche che era del PDL. Vabbè, insomma, voleva far rispettare i termini, no? Io sono uno che vuole che si rispetti la legge. Ho capito. Ha chiamato i carabinieri? I carabinieri sono già presenti. Vabbè, sì, ha chiamato, nel senso, sollecitati. Ho sollecitato, ho chiamato anche il magistrato, è passato mezzogiorno, chi è dentro questa linea? La linea rossa. Scusi, ma sta linea rossa chi la decide? Perché uno decide? Chi decide che questa linea rossa? La legge dice che c'è una linea rossa, addirittura rossa, la legge. Non so come chiamarla, una linea di demarcazione. Cioè, nella legge c'è scritto che ci deve essere una linea di demarcazione se uno è da una parte è escluso e se è dentro può presentare la lista. No, la legge dice che entro le ore 12 bisogna presentare e siamo d'accordo. Il materiale in una determinata. Ecco, ma come luogo si presenta fisicamente dentro o fuori da una linea? Non è che lo specifica la legge. No, avrebbero fatto una sorta di stanza, era un corridoio che è diventata, chiudendo una parte con questo schieramento di carabinieri, è diventata una stanza, quella stanza là. Siccome succede questo, io posso pure entrare. No, ma ho capito benissimo, Di Tommaso, adesso abbiamo il traffico, poi torno con lei perché mi deve specificare questa cosa, mi deve chiarire questa cosa, perché lei dice si può entrare fino a un certo punto, tutti possono entrare, diciamo, però ci deve essere una linea, chi è oltre quella linea significa che può presentare la lista, chi è dall'altra parte, dopo le 12 naturalmente è finita. Eccoci, 2049 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Stiamo ricostruendo quello che è avvenuto nelle famose stanze del tribunale. Esattamente che tribunale, Di Tommaso? Tribunale di Roma. La Corte d'Appello? No, la Corte d'Appello è proprio il Tribunale di Roma. Ufficio elettorale del Tribunale. Ufficio elettorale, edificio C. Lo stiamo ricostruendo con Atlantide Di Tommaso, che è segretario romano del Partito Socialista, il quale è uno di quelli che si è sdraiato, dice lui, accanto ai piedi dei carabinieri e dei poliziotti alle 12.45, quando ormai, insomma, i termini erano scaduti per la presentazione delle liste. Senta, Di Tommaso, però voglio capire questa cosa delle stanze e della linea di demarcazione. Cioè, chi lo decide che a un certo punto questa linea... I carabinieri, il confine oltre il quale non si può andare... a consegnare, non è che lo decido io. Se c'era una, materialmente una porta, era quella porta, era un corridoio, lo decidono loro. Ok, ma se uno sta dalla parte, diciamo, fuori da quella linea, ma sta con i plichi in mano, è escluso? Fuori quella linea, cioè nella parte pubblica dove ci può stare anche lei, per esempio. Di fatto sì, la legge dice che entro mezzogiorno bisogna stare dall'altra parte. Poi, se non, siccome in genere... No, la legge non dirà, non dirà che bisogna stare dall'altra parte, bisogna... consegnare le cose... bisogna consegnare, ma se uno si trova al corridoio, diciamo, a 30 metri... Questo la legge parla chiaro, se sta al corridoio a 30 metri e fa tardi, o ha un valido motivo di impedimento... Ho capito. In ritardo, poi il giudice stabilirà, no, se accettare o non accettare. Certo. E dunque, chi ha deciso se prenderla o non prenderla? Poi quelli è il magistrato. Il magistrato che era lì. Io non so neanche se poi gliel'hanno consegnata. Il magistrato che era lì. No, pare di no, pare che le liste non ci siano là, non gliel'hanno potuta consegnare. Ma guardi, la ricostruzione che circola sui giornali, insomma, sì, sui siti, è quella che corrisponde alla verità. Cioè? Cioè, è successo questo. E il presentatore, il presunto presentatore della lista del PDL era, inizialmente stava dentro intorno al mezzogiorno e 38 sì, 39 insieme a un altro signore, sì, e stavano vicino ai pacchi, allo scatolone che presumo io per il suo volume era il contenitore delle firme, dei verbali, sì, delle firme. Dopodiché, confabulando tra di loro, sono accorti che c'era una ripresa di tutti i video, perché già stavamo oltre, era pure anomalo toccare i pacchi in quel momento. Mm-hmm. Comunque quasi tutti stavano lì a riprendere con i videotelefonini. Sì. Il primo signore, che non mi ricordo come si chiama, anzi non conosco, si è allontanato andando fuori dalla stanza e percorrendo, sì, tutto il corridoio verso l'esterno, ed è stato seguito subito in maniera anche veloce dal Milioni, che era quello che, sì, avrebbe dovuto presentare la lista, uscendo con la cartellina in mano di tutta la documentazione necessaria e richiesta per la presentazione della lista, cioè gli atti. Ma perché si sono allontanati, secondo lei? Ma guardi, perché io devo chiedere a lei, a loro, è tre giorni che cerchiamo di contattare sto Milioni, è sparito. Più la domanda da fare è perché non hanno consegnato, visto che stavano nell'aula dove, certo, si può fare la fila. Senta, ma questa cosa del panino che Milioni è andato a mangiare, è vero o no? Questo io non l'ho visto mangiare il panino, non è una cosa giustificabile, perché un professionista, in genere queste cose le fanno tra virgolette i professionisti dei partiti. Milioni ha un'esperienza lunga. Vabbè, voglio capire una cosa di Tommaso. Lei si è sdraiato per impedire che poi fossero consegnate le firme? No, mi sono sdraiato per impedire niente. E che si è sdraiato a fare allora? Per una manifestazione civile di protesta, per sottolineare che era passato mezzogiorno e c'erano delle persone che ancora cercavano di entrare, avrebbero potuto entrare nella zona preposta. Lei dice la legge è questa, dopo mezzogiorno non può entrare nessuno. Tra le altre cose, questo sdraiarmi l'ho fatto abbondantemente oltre mezzogiorno, quindi. Ma soprattutto quello è un atto, e poi anche per controllare che non ci fossero passaggi di carte in maniera furtiva. Ma non è che i passaggi delle carte, qui non è che si tratta di concorsi pubblici. No, sono fascicoli. No, ma quello che voglio dire, lo sbarramento che hanno fatto i carabinieri, proprio, sì, io non comando i carabinieri. L'ha chiamato. Il comandante che, sì, ha garantito, tra le altre cose, in maniera eccellente l'ordine pubblico, sì, anche perché non c'è stata nessuna forma di violenza, sì, e il comandante ha fatto un cordone per il quale alla fine i carabinieri sono stati quelli esclusi dalla lista del PDL. No, materialmente è una forzatura. Mi scusi, la lista del PDL non è stata consegnata. No, ma ho capito. Però a un certo punto, perché si sono messi i carabinieri davanti. No, non si poteva entrare. Appunto, non si poteva entrare perché c'erano i carabinieri anche. Ma certo. Questo voglio sapere. C'erano i carabinieri. Però se stavano dentro, voglio dire, se loro stavano Se erano dentro, abbiamo detto che dovevano consegnarla anche dopo mezzogiorno, sì, una volta che stavano dentro. Di Tommaso, io la ringrazio. Io ancora sta cosa della linea, chi sta dentro e chi sta fuori, non l'ho capita. Lei dice che al di qua, diciamo, nella zona morta dove Milioni è andato forse a farsi un panino, è un'area pubblica dove potrei entrare pure io, diciamo, no? Esatto. E invece, sì, al di qua, nella zona virtuosa, è una, diciamo, sono quelli che devono presentare le liste. L'accesso è consentito consentito soltanto ai presentatori delle liste. Ho capito, ho capito. Dentro mezzogiorno. Ho capito, ma chi decide oltre là o prima di là? Cioè la linea, chi la fa? No, è stato stabilito che quella la, sì, ma la linea chi la fa? Chi la tira la linea? Il comandante dei carabinieri, è una stanza, quella è una stanza. Ho capito. Ho capito. I carabinieri. Magistrato, lì era tutto questo è successo alla presenza del magistrato. Sì, sì, no, ma ho capito benissimo, insomma, tutto, insomma, francamente, la linea, i carabinieri, il cordone, tutto ha una, un sapore un po' ridicolo, lo ammetterà anche lei, di Tommaso, o no? Ammetto perché è tutto nella legalità. No, ma non chiesto. Dico che la, appunto perché è nella legalità che è ridicolo. Allora, mi scusi, le faccio una domanda, ma sì. Secondo lei, sì. Se io che rappresento un partito che sì. Non è grosso quanto quello del PDL, ma qualcuno che rappresentava un partito molto più piccolo del mio, sì, sì. Avesse fatto un errore del genere, sarebbe stato cacciato su due piedi? Ma non sarebbe neanche potuto entrare a prendere il caffè. Sì, no, ma su questo sono d'accordo con lei, stiamo discutendo qua. La legalità vale per tutti, per no, i piccoli e per lei ha ragione, stiamo discutendo qui perché è stata esclusa la lista del PDL, sarebbe stata la stessa cosa del Partito Democratico. Per i partiti piccoli non ci sarebbe stata discussione. Devo chiudere, grazie Di Tommaso, buona serata. Domenico da Trento, 30 secondi e poi chiudiamo. Sì, buonasera. Dica, poi tutti gli altri li mandiamo a domani. Domenico, 30 secondi. Ah, semplicemente sono d'accordo con quello che diceva l'ascoltatore precedente. Che non era un ascoltatore, ma era quello che si è sdraiato davanti ai carabinieri, comunque. Esattamente, esattamente. E penso che tutto sommato la legge deve essere rispettata. Io non capisco, può essere ridicolo, come diceva lei, la linea. Beh, insomma, ammetterà che la linea, i carabinieri, la stanza, tutto è un po' ridicolo, francamente. Appunto perché ci sono i cavilli di legge, poi il fatto che si trasformi in farsa, insomma, non è un bello spettacolo. Domenico, purtroppo devo chiudere. Maria Teresa da Roma, Dario da Brescia, lei, Angelo, Luca, Michele, tutti domani, se vogliono, 18:30, ciao. La Zanzara.